altro amore io preferia, è un'idea all'amante mia, a cui detti braccio e cor, il mio cuore amore sfida i potenti della terra, e il mio braccio muove guerra al codardo e all'oppressor. Chiamiamo l'uguaglianza, siamo chiamati malfattori, ma noi siamo lavoratori che padroni non vogliamo. Dei livelli sventoliamo le bandiere insanguinate e inalziamo le barricate per la vera libertà. E inalziamo le barricate per la vera libertà. Fanciulla cara, noi lassù combatteremo, e nel dì che vinceremo, braccia e cor ti donerò.